fittino, segui pure l'amore d'una perversa donna, che ho bella mia vendetta, or ti preparo. Questa già fodia me nel volto mio, ben che da te negletto, e qual giovi garzon solo mi segue. Io per darti un tormento e perdono il mio dono, la seguirò fedele, perché dico qual è.